Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Mi troverai tra le costellazioni, storie di resistenza picena. Di e con Emiliano Valente, sonorizzazioni originali dal vivo di Carlo Amato. Un sacco pieno di storie, pieno di parole, pieno di lettere. Difficile sceglierne una, ma bisogna pur farlo. E così decido di raccontare la storia di un postino nato e vissuto ad Ascoli. Cara Teresa, ho deciso di scriverti. Sì, ho raccolto tante di quelle storie che ho veramente il desiderio di raccontartele tutte. Lo so che tutte non sarà mai possibile, però voglio iniziare da qualche parte. Allora, facciamo così, Teresa. Inizio dalla mia, no? Tu in parte la sai, mi conosci. Però non sai che cosa ho provato quando sono finito lassù sui monti, Teresa. Ero giovane, ero spinto da grandi ideali, dal desiderio di cambiare davvero il mondo. E sono finito in questo vecchio casolare di campagna con un comandante più giovani di me. Era strano, Teresa, essere comandati da uno ancora più giovane e io non avevo neanche 17 anni. E poi, in quel casolare, la vita era un inferno. Sì, di giorno soprattutto. Mancava qualsiasi cosa, Teresa. Mancava il cibo, scarseggiava, i contadini delle case vicine qualcosa ci portavano, ma con l'arrivare dell'inverno dovevano proteggere loro e la loro famiglia. Di sicuro non potevano portarci cibo in continuazione. E poi non c'era tabacco. E stare in montagna per giorni interi senza sapere nemmeno bene cosa fare, senza neanche un po' di tabacco, magari da mischiare, Teresa, con qualche buccia di patate, da mettere in una pipa, era un inferno anche quello. E poi i vestiti. Arrivò l'inverno, mancavano giacche, maglie di lana, gli scarponi per il fango, per la neve. Non c'erano medicinali, non c'era denaro. Però c'eravate voi, la nostra luce. Sì, voi, tu e le altre donne. Era l'unica cosa che amavo di giorno. Perché di notte era diverso, Teresa. Di notte mi mettevo sul costone più alto e più sporgente a guardare il cielo. Non ho mai capito nulla di costellazioni, Teresa, però me ne stavo lì a immaginare di riconoscerne qualcuna. Univo i puntini l'uno con l'altro e ci vedevo un orso, un gatto, una radio, una bilancia. Immaginavo, fantasticato. E la notte passava, e passava meglio del giorno. Di giorno attendevo solo te e le altre donne, che affrontavate la neve, il gelo, il fango, la pioggia, per arrampicarvi lì su quella montagna e venire da noi a portarci il cibo o semplicemente delle informazioni. Quante volte l'hai fatto, Teresa, di andare dall'altro lato della montagna, dal parroco, che era l'unico che possedeva una radio, a carpire qualche informazione che tu neanche capivi bene perché erano informazioni in codice, e allora ti affrontavi tutto il viaggio cercando di ricordarti per bene quello che ti aveva detto il parroco, e delle volte te lo scordavi, e allora avevi preso l'abitudine di infilarti un foglietto tra le scarpe, tra la suola del piede e la scarpa. E poi lo venivi a portare a noi, e senza chiedere nulla in cambio, solo perché era necessario farlo. Però Teresa, lo sai una cosa? Questa non te l'ho mai detta. Dal primo giorno che ti ho visto, ho capito subito che mi sarei innamorato di te. Sì, tanto che nei giorni successivi ti evitavo, perché evidentemente diventavo rosso, mi imbarazzavo e gli altri se ne erano accorti. Tanto mi hanno fermato un giorno e mi hanno detto, vabbè, ma siamo qui per combattere, mica per guardare le gambe delle signorine. E avevano ragione loro, Teresa, ma io non ce la facevo. E poi te lo ricordi? Te lo ricordi? Poi non ho resistito più. Mi sono nascosto dietro quell'arbusto e come ti ho visto riscendere con la tua sacca che ti riportavi via le cose, ho urlato, Teresa! Teresa! Tu eri! Che ti ho fatto prendere uno spavento che per fortuna non eri armata che mi avresti sparato all'istante, se no. E poi ti ho guardato tutto convinto. Ma non sapevo bene che dirti. E allora, lo sai, Teresa, che se tu la notte ti metti a guardare il cielo e unisci i puntini, puoi farci tante forme come ti pare a te. Le chiamano costellazioni. Io non lo so quelle che esistono davvero e quelle no, ma se tu ti ci metti stasera, promettimelo, come torni a casa e fa buio, mettiti a guardare il cielo, unisci i puntini. E immagina di vedere delle forme nel cielo. Certo che con tutte le cose che potevo dirti, mi sono messo a parlare di una cosa che nemmeno conoscevo, che è imbranato. E tu più di me, perché l'hai fatto davvero. E quando il giorno dopo ti sei ripresentato, io pensavo che mi tirassi qualcosa dietro. Invece mi hai guardato e mi hai detto, lo sai che l'ho guardato davvero il cielo? E lo sai che ho visto un orso e una bilancia, però non mi piaceva quella bilancia, perché il piatto dell'ingiustizia era molto più pieno e stava in basso rispetto a quello dei giusti. Ce la faremo un giorno a ribaltarlo. E insomma, Teresa, da quel giorno non devo più raccontarti niente, no? Lo sai, abbiamo iniziato a piacerci, a conoscerci un po', sempre di nascosto, che gli altri non avrebbero capito. Fino a che non mi hanno richiamato in città. Era finito il mio lavoro lì sui monti. Servivo alla posta, Teresa. Serviva qualcuno di noi lì, a smistare e a controllare lettere. E allora me lo ricordo ancora, quando ti ho guardato negli occhi e quasi piangendo ti ho detto, Teresa, io devo tornare in città. E tu, senza battere ciglio, con la tua durezza e freddezza, mi hai detto, è giusto così. Non è tempo di innamorarsi. Abbiamo un obiettivo più grande. Vai e fai il tuo dovere. Poi però ti ho visto mentre ti allontanavi che ti scendeva una lacrima. E da quel giorno, Teresa, ho iniziato a smistare lettere e fogli. Parole scritte, parole non dette, parole a metà. E ora è come se le potessi riaprire tutte e riguardare di nuovo. Ed è come se volessi regalarti una serie di storie, perché lo sai, Teresa, che succede? Che se tu ne apri una e la inizi solo a guardare i suoni, È come se diventassero reali. Puoi sentire anche le voci, Teresa. Eppure la mattina del 3 ottobre, come tutte le mattine, mi sono svegliata all'alba. Mi ero abituato così sia quando facevo il militare giù al paese mio, sia quando mi hanno trasferito qua nelle Marche. Eppure quella mattina del 3 ottobre stavo lì, sul monte, sul colle San Marco, che era questo colle che sovrastava la città dove ci eravamo radunati tutti quanti. E mi sono svegliato all'alba, che a me l'alba piaceva tanto. Mi piaceva vedere la luce del sole che cresceva piano piano. Quella mattina del 3 ottobre però c'era tanta nebbia e allora la luce si vedeva e non si vedeva del sole. Ma io ho preso a camminare uguale su per il sentiero, per il monte, fino a che non sono arrivato nella mia piccola grotticella, che là mi sentivo protetto, seduto, protetto dalla roccia e potevo guardare l'intera vallata. E aspettavo solo che il sole salisse. Chi me l'avrebbe mai detto che mi sarei salvato proprio per quello? Che non è che quando sono andato là sopra sul colle San Marco pensavo, guarda, ti salverai grazie al fatto che ti svegli presto la mattina all'alba. No, io ero pronto a combattere, a correre, a lanciare granate, a affrontare i tedeschi faccia a faccia, invece no. Questo fatto dell'insonnia che mi aveva salvato. Mi ero allontanato quella mattina del 3 ottobre, giusto 500 metri dall'accampamento. Noi eravamo a San Giacomo, che era l'avamposto più lontano dalla città. Gli altri erano giù a San Marco. E lì erano organizzati, cioè avevano pure i collegamenti telefonici, che il primo appostamento stava proprio nella pompa di benzina della città. Come vedevi passare qualcuno, dovevi avvertire dalla pompa di benzina a quelli che stavano a Colle San Marco. E loro erano preparati, ma noi su, in fondo, non avevamo queste informazioni. Lì il telefono non ci arrivava. Veniva giusto qualcuno a informarci e a portarci da mangiare. Eppure la mattina, nel pomeriggio prima del 2 ottobre, si erano presentati Francesco, Paolo e ci avevano detto che era tutto sotto controllo, avevano lasciato il cibo e se ne erano andati. Ma non era per niente tutto sotto controllo, perché noi ce li aspettavamo da sotto. E invece, i tedeschi, guidati da spie italiane, chiaro, no? Come facevano a sapere come si arrivava a San Giacomo? Quelli sono sentieri di montagna, solo se li conosci, no? Li avevano accompagnati, i protettori della patria, e li avevano portati proprio davanti a noi. Io questa scena la vedevo da sopra, alla mia roccia. I tedeschi arrivavano con le prime luci dell'alba al nostro accampamento. Gli altri dormivano tutti. Né scene di violenza, né sparatorie. Avevano solo sequestrato tutto, ribaltato l'accampamento e portato via i miei compagni. E io me ne restavo lì solo, in silenzio, senza poter far nulla. Che non doveva essere questa la guerra per me. No, non poteva essere questa. Io volevo combattere, ma da solo dove andavo? Contro un esercito. In silenzio dovevo stare e nel frattempo in tutto il colle arrivava il tumulto di grida, granate, bombe, gente che correva e io lì ancora in silenzio e passò del tempo, passò, ma non lo so quanto, che quando sei in bilico tra la vita e la morte tu non lo sai quantificare il tempo e io me ne stavo là in silenzio con il frastuono intorno a me. Poi dopo un tempo indefinito che quando sei in bilico tra la vita e la morte tu il tempo non lo sai proprio contare, il frastuono si fece gigante e iniziò a scuotere gli alberi, le foglie, il terreno sotto i miei piedi, il mio corpo, la mia anima, tutto tremava. Tutto tremava su quel colle e non erano granate, non erano bombe. Un violento terremoto si stava abbattendo per tutto il colle. Passati quei 50 secondi, rimase un po' di silenzio, ma non molto. La battaglia era stata interrotta da qualcosa di più grande, però pensai lucidamente che forse quello aveva aiutato i nostri, che erano un po' più abituati al terremoto. Magari l'esercito si era spaventato, no? Chi lo sapeva come andava quel conflitto? E c'era tanta nebbia. Stavo ancora immobile su quel costone di rocce, protetto solo dalle rocce, fino a che un rumore si palesò davanti ai miei occhi, un gruppetto dei nostri. Erano i nostri, sei miei compagni. Mi accertai per bene che nessuno li stesse seguendo e corsi incontro a loro. Mi dissero proprio che si erano salvati per via del terremoto. I tedeschi gli avevano puntato le armi contro, erano pronti a sparare, ormai li avevano accerchiati. Poi quel fragore, la terra che stremava e l'esercito che ne era impreparato e si ritirò, fece qualche passo indietro, pensò a chissà quale arma che era arrivata dall'alto, non immaginava il terremoto. E loro si erano ricompattati e via per la montagna a scappare, ed erano proprio arrivati davanti a me. Mi dissero: Paolo, William, Franco e altri tre erano che non conoscevo, e William mi disse: andiamo giù all'accampamento di San Giacomo, che ci servono le munizioni, ci serve qualche cosa anche da mangiare, da bere, se c'è ancora. Io li fermai e gli spiegai che lì sotto non si poteva più andare, che erano arrivati i tedeschi prima di noi. Neanche il tempo di spiegarglielo, che girandoci in mezzo alla nebbia udimmo delle urla, poi guardando bene vedemmo la scena di 10 compagni nostri con le braccia alzate e un plotone tedesco che era pronto a sparare. Tra questi c'era pure il nostro capitano Verini, che fu il più lesto di tutti, capì che se fosse rimasto lì sarebbe morto all'istante. L'avrebbero riconosciuto e gli avrebbero sparato sicuramente. E allora fece qualche passo, indietreggiando sempre più veloce, e si lanciò giù per il burrone, rotolando, mentre gli altri si avvicinavano. I tedeschi al burrone sparavano in mezzo agli alberi, ma nessuno riusciva a prenderlo, e lui si era riuscito a liberare e a scappare, gli altri no. Vennero presi e portati via. Io guardai William. Tra noi era tutto un guardarsi. Non potevamo fare rumori. Potevamo solo dirci con gli occhi cosa era meglio fare. E fu proprio William a indicarci con lo sguardo di prendere la strada per la montagna. Era l'unica nostra salvezza. E camminavo nella nebbia, pregando la montagna di salvarmi. Pregavo gli arbusti, il vento, di proteggere i miei rumori, gli arbusti di non farmi vedere. La nebbia, coprimi, è l'unico modo per salvarsi, perché mi resi conto che ogni volta che arrivavamo in un posto i tedeschi erano arrivati prima di noi. Era come se percorressimo due sentieri paralleli, e forse davvero gli arbusti, il vento, la nebbia ci avevano salvato, perché arrivavamo sani e salvi vicino a casa. Da lì iniziò la mia storia partigiana. Vedi, Teresa, non riesco nemmeno ad andare in ordine, no? È che è inutile raccontarti con le San Marco senza spiegarti come ci si è arrivati lì sopra poi, no? Chi è che ha costretto i cittadini a radunarsi in un colle per proteggere la città? È Teresa. E allora bisogna fare un passo indietro. Trovare una nuova storia che ti racconti per filo e per segno come sono andati fatti, magari, no? Perché abbiamo bisogno anche dei fatti, vero Teresa? Devi capire, devi sapere. Bene, sono capitati tanti, ma tanti, che non riesco proprio a metterli in ordine. Voi stavamo là, no? Io e Sparta Coverini eravamo tornati dalla campagna dei russi. E allora da sta campagna dei russi ci siamo tornati e siamo salvati in pochi, no? E allora ci ho detto, Sparta Coverini, io vengo da casa. Lui mi ha detto, no, non ce ne vuoi tornare a casa. Tu devi venire con me, mi ha detto, la città, dove ne vai, tra i monti. E allora io sono seguito perché mi fidavo di lui, no? E lui era uno bravo, era uno che ci capiva. Allora se siamo presentati, proprio la mattina del 10 di settembre, ci siamo presentati dentro l'ufficio del generale e gli abbiamo detto all'ufficio del generale, guarda generale, che qua sta del generale la situazione, guarda che i tedeschi sono già entrati dentro Roma, mica potremmo far sta qua a guardare pure noi, se dobbiamo organizzare pure noi come cittadini, non è che potremmo lasciare solo la difesa a voce, pure noi siamo capaci, io tornavo dalla Russia, gli disse Renini sbattendo i pugni sopra il tavolo, ma il generale non sentiva. Non volevano sentire, no, perché quelli dicevano guarda che ci stiamo organizzando da sole, guarda che i comandi ci hanno detto che dobbiamo fare da sole, voi lasciate perdere, lasciate stare, fatevi da fare vostre perché tanto ce l'avevamo da sole. E bisognava fidarsi, no? Se un generale ti dice che stavamo da sole, ti prefiri, ma Benigni no, che Benigni quello era uno mezzo matto, io non si l'avevo conosciuto, ma soprattutto Benigni poi, quello era uno che lo sapeva come si comportavano i tedeschi, no? Quello lo sapevano come facevano i tedeschi, che quelli ammazzavano, sparavano, quelli bruciavano i villaggi interi, avevamo visto in Russia come si comportavano, e allora bisognava prepararsi a difendere, c'aveva ragione lui, e infatti c'era così tanta ragione che i tedeschi si erano presentati pure ad Ascoli, e certo che si erano presentati ad Ascoli, era la mattina del 12 di settembre, si sono presentati sì, sono arrivati prima con Gagnon, alle 9 di mattina, no? Mentre la città si stava risvegliando e c'erano i ragazzetti che giocavano nelle rue e c'erano uomini che stavano andando a lavorare e c'erano le donne che erano scese al Casperto Rosigno ai lavatoi, no? E si raccontavano le storie in tutta questa normalità di questa città. A un certo punto arrivano sti tedeschi dentro una piazza e cominciano a sparare all'imbazzata con dei matti e hanno ammazzato pure il cane che è stato il primo che hanno ammazzato dentro la città secondo quel poro cane, che poi che c'entrava quel poro cane non lo so, però insomma i tedeschi non è che volevano venire ad Ascoli per ammazzare il cane, no? Quelli volevano andare dritti dentro le caserme perché dovevano riprendersi un po' le caserme che erano state un po' abbandonate, che le reti non si sapeva con chi si doveva mettere, aveva temporeggiato e queste caserme stavano là che nessuno le proteggeva, no? E invece quando sono arrivati dentro la caserma per lei ci hanno trovato solo due sottufficiali, no? E l'hanno subito presi. Solo che nel frattempo i camion se ne erano andati, i tenenti che erano scesi tedeschi sono scesi giù, si sono trovati manca il camion dei tedeschi, hanno trovato questi due carabinieri, li hanno sequestrati e hanno detto, mo come se li portiamo via? Allora per là passava un povero cristiano con la macchina sua, che era l'unico che forse che c'aveva la macchina dentro Ascoli, l'hanno fermato, gli hanno detto, mo la macchina te la sequestriamo, gliel'hanno detto il tedesco, ma poi l'ha capito perché c'era la mitraglietta, perché capiva il tedesco, e insomma l'hanno fatto salire sopra la macchina. E se ne sono andati e il povero cristiano l'ha lasciato senza la macchina là. E però nel frattempo i due sottufficiali della caserma di lei erano stati svegli perché mentre hanno visto arrivare i tedeschi che sparavano all'impazzata contro il cane, hanno subito avvertito le altre caserme, guardate che ci stanno i tedeschi, stanno arrivando dentro la città. E allora nelle altre caserme tutte organizzate, intanto tutta la città ce lo sapeva, e sapendocelo tutta la città hanno detto, mosso organizziamo pure noi. Pure Perini ci ha preso a tutti noi, ha detto mo si mettiamo a combattere, aspettiamo davanti alla casa di Umberto I che tanto i tedeschi che qua sono passati, no? E infatti alle 11 della mattina si sono presentati e poi quando si presentano i tedeschi non è che entrano e ti dicono già buongiorno e buonasera, cioè no, il primo è sceso pure il tenente è sceso, è andato alla porta, ha bussato, regolare, nessuno ci ha aperto. Poi non è che loro sono abituati che se tu non gli apri la prima volta ti suonano. No! Come? Come hanno bussato la prima volta? Nessuno ha risposto. Hanno cominciato a sparare le mitragliette verso le finestre. Convinti che da là corressero subito ad aprire. E invece no, da sopra hanno cominciato a sparare pure loro. E allora è iniziato il conflitto, no? È iniziato il conflitto tanto che il tenente se ne è preso sto Hoffman, che era il tenente loro, se ne è preso in altri cinque, ha detto andiamo a vedere dentro questi che vogliono da noi. E se l'è portato dentro, dentro proprio che c'era una porticina esterna che era ancora rimasta aperta, no? È entrato e hanno cominciato a sparare l'impazzata che hanno ammazzato un povero tenente albanese, un povero bravo ragazzo che aveva 19 anni, che questo scriveva pure le musiche, ma da sopra continuavano a sparare perché gli rispondevano e hanno fatto secca il tenente Hoffman, secco per terra che è rimasto stremato. E allora l'altro 5 che erano entrati con lui hanno detto vabbè, e qua si mette male e se ne sono usciti fuori, che erano convinti che uscendo fuori tutto tornasse normale, no? E manco per niente, perché da fuori erano saltate tutte le camionette dei tedeschi, per fuoco, questi che scappavano a piedi, la gente che sparava, sono arrivati altri, altre 10-15 camionette, hanno raccattato quelli che correvano a piedi e hanno puntato dritti verso il ponte di Porta Maggiore, e dal ponte di Porta Maggiore volevano andare verso San Filippo e Giacomo, al quartiere dove c'è stava l'altra casermetta, sicuri che là non ci trovavano nessuno, ma là già si erano attrezzati pure l'avieri, si erano messi sopra il ponte pronti a passare, ma nel frattempo, mentre facevano pure piani di indipendenza, un altro gruppo di cittadini dove c'è stava Emilio Lelli che li guidava lui ha cominciato a sparare l'impazzata, sti tedeschi sparavano e questi schivavano le pallottole e schivano la pallottola di qua e cercano di entrare dentro al quartiere che c'è l'ingresso stretto, si è ribaltato un camion loro, ha preso fuoco, l'altro come sono arrivati dietro hanno sbattuto e insomma un butiferio, tutti a scena che cominciano a camminare dentro i quartieri, a cercare di bussare le case per capire se qualcuno gli apriva, non gli apriva nessuno, e insomma a un certo punto si tedeschi sapendo che fa, scoprire il modo di sta battaglia, è andata avanti per almeno 3-4 ore con questi che scappavano e si è chiusa verso le 4. Che alle 4, quando si è chiusa la battaglia, ce n'erano 5 dei nostri morti e 15 dei loro morti, ma soprattutto quando si è chiusa alle 4 questa battaglia ce n'erano almeno 100 che avevano sequestrato dentro un capannone, l'avevano messi 100 tedeschi sequestrati con tutte le armi loro pure sequestrate. Oh, era la prima vittoria e non erano solo i militari, erano i cittadini e i militari che si mettevano insieme e facevano la prima vittoria contro i tedeschi. Se potevano combattere allora, bastava organizzarsi, no? Ed eravamo tutti contenti di questa vittoria. Ma questa vittoria poi è durata poco, che dopo sono arrivati i generali, più in alto dei tedeschi, si sono presentati dai generali nostri e gli hanno detto qua tocca trattare. Se non trattavano non c'è l'età dei prigionieri e le armi, sta città la rademo al suolo. E i generali italiani si sono impauriti, hanno detto questi fanno davvero, e allora hanno trattato, quando hanno trattato, gli hanno ridato l'uomo, gli hanno ridato le armi, gli hanno riconsegnato tutto e la vittoria così è sfumata in un attimo, però c'era stata, solo che noi stavamo aspettando ancora gente per capire che era successo e stavamo tutti armati per cercare, perché gli spari erano venuti da San Filippo e Giacomo, ma mica lo sapevamo che stava succedendo veramente. E allora stavamo là tutti pronti per sparare, ma non succedeva niente, solo alle 6 del pomeriggio si ripresenta la prima macchina che avevano sequestrato al cittadino con dentro i due ufficiali tedeschi e i due carabinieri, ma non si capiva chi è che stava a tenere chi, sembrava che andassero d'accordo, solo che noi stavamo tutti pronti a sparare, una tensione, una paura, tutti imbauriti. Questa paura è stata rotta da Emilio, il proprietario della macchina, che come ha visto arrivare la macchina sua, si è parato davanti a tutti e ha detto oh, voi scendete da sta macchina, o me ridate sta macchina o io faccio una strage qua, che ho fatto tanti di quei sacrifici per comprarmi sta macchina che poi mica me la può venire a rubare te che viene dalla Germania. Io me la rompo subito, te la riprendo subito questa macchina, vedete scemi? I tedeschi capivano, se guardavano un po' storditi, gli italiani avevano capito, ridevano e ci provavano a spiegare in tedesco in una lingua un po' strana, mezzo inglese, mezzo tedesco, che era meglio che scendevano, che quella faceva sul serio, che era pure armato, e insomma fatto sta che quelli ci hanno creduto, sono scesi e hanno continuato a piedi per un altro paio di chilometri. Emilio tutto felice è risalito sulla macchina Ha fatto una bella giravolta suonando il clacson con tutti che battono le mani. È stata una festa. Solo che poi la sera poi abbiamo capito che mo bisognava cominciare a far sul serio. Ci siamo trovati con Perini, con Landri, abbiamo detto, oh, qua tocca cominciare a difendere. E infatti ci siamo organizzati e abbiamo detto, andiamo su, a San Marco, sul colle. Ci siamo mettiamo tutti insieme, abbiamo fatto un campo militare e siamo stati là, era tutto organizzato. Abbiamo eletto Perini come il comandante nostro, che ci sembrava più preparato. Abbiamo dislocato le persone un po' del qua, un po' del là e siamo andati avanti da quel 12 di settembre fino al 3 ottobre. Che poi il 3 ottobre sono arrivati i tedeschi, qualcuno è morto, l'altro sono venuti scappati. Perché vedi, Teresa, può sembrare, no, che il mio fosse un lavoro semplice. Dici, ma come? Gli altri si sparavano, si ammazzavano su per i monti e tu te ne stavi tranquillo e beato alla posta. Eh no, Teresa, no. No, eravamo in tre. In tre quelli che dovevano fare quel lavoro così sporco dentro la posta. In tre. E ce l'avamo organizzati per bene, eh. Tutte le lettere che passavano, noi le prendevamo, con un po' di vapore scioglievamo la colla, le aprivamo, leggevamo il contenuto. Se c'era qualche denuncia, se c'era qualche segnalazione, il foglio veniva preso, accartocciato e buttato in un cestino, compresa la busta, eh. Se invece c'era qualche segnalazione che veniva da un comando tedesco all'altro, no? Che si davano delle direttive anche attraverso la posta. Allora la posta veniva richiusa, noi ci appuntavamo tutto e la facevamo passare. Era un compito ingrato, Teresa. Ma quante vite abbiamo salvato così? Quanta gente denunciata? Quante spie c'erano, insospettabili, che attraverso la posta segnalavano a qualche comando tedesco fascista la presenza di un presunto partigiano lì tra i monti o nel paese vicino. E quanti ne abbiamo salvati, e anche quanti possibili agguati abbiamo scampato grazie a questo, Teresa. Solo che poi, andando avanti, no, con le settimane, la situazione destò qualche sospetto lì all'interno della posta, no? Entravano 1000 lettere e ne uscivano 600. C'era un problema. E allora dai direttori generali della posta mandarono un ispettore proprio a monitorare esattamente quello che accadeva lì dentro. Beh, devo dire che i primi giorni furono un po' delicati. Sì, lo ascoltammo l'ispettore. Lui disse chiaramente che avrebbe contato le lettere che arrivavano all'ingresso e dovevano corrispondere esattamente a quelle che uscivano. Mi sembrava una buona idea. E allora siamo rimasti io, Primo, Paolo, un po' fermi per qualche giorno per cercare di studiare un piano per poter evitare tutto questo, no? Poi che cosa è successo? Che a Primo è avvenuta l'idea. Ha detto, scusami, no, cittadini, il compagno quello di Ascoli ha una macchina da scrivere a casa. Noi ormai ci siamo abituati, no, a forza di leggere, a capire il linguaggio che usano loro quando comunicano, no? Allora, tanto vale che noi ci prepariamo dei bei documenti a casa. Poi, quando arriva la busta, sostituiamo il documento. Così il numero di busta rimane uguale, però l'informazione la cambiamo noi. Era un'ottima idea, ma ci mancavano i timbri. Come facevamo senza timbri a far passare dei documenti? E allora, in quel caso, Antonio venne e ci disse che aveva capito dove trovare i timbri. E in una caserma che era gestita a metà tra tedeschi e residui fascisti che ancora c'erano, c'era un ufficio, l'aveva visto spiando da una finestra, e in quell'ufficio, su quella scrivania, sembrava di aver visto a lui una serie infinita di timbri. E allora aspettammo la sera giusta, in cui avevano lasciato una finestra semiaperta, ci passavamo praticamente tutte le sere. E io, che ero il più agile, mi arrampicai su questo leccio che dava proprio su quella finestra e entrai dentro. con una piccola torcetta riuscì a farmi vincere. Mi ritrovai davvero timido di Teresa. Erano proprio sulla scrivania, uno tedesco, l'altro fascista. Non c'era l'H. Perfetti. Me li misi in tasca, ma nemmeno il tempo di uscire a tornare verso l'albero che sentì i rumori arrivare dal corridoio e mi lanciai dalla finestra sull'albero e rimasi aggrappato sul ramo. Gli altri, quando videro la luce accendersi dell'ufficio, gli altri due che mi aspettavano sotto, presero a correre per la paura e mi lasciarono solo appeso ad un ramo. Senza fare troppo rumore, riuscii a rimettermi almeno dritto seduto. Ma di sicuro non potevo scendere, era almeno 1,5 metri, saltando avrei fatto rumore e si sarebbero accorti di me, mi avrebbero sparato all'istante, quindi rimasi lì appeso. No, Teresa, no, non rimasi appeso a guardare le stelle, cioè sì, le guardai anche, ma in quel caso non avevo tanto da immaginare sulle costellazioni, volevo capire come dovevo salvare la vita, Teresa. E quindi me ne rimasi là, almeno un'oretta, aspettando che quei due tornassero, maledetti. E quei due sono tornati, sì, dopo 1,5 ore, 2 forse, e io sempre lì stavo. Allora in silenzio mi hanno fatto scendere e poi piano piano ci siamo allontanati, e solo quando ci siamo allontanati gliel'ho dette tante, Teresa, sì. Eh no, non si lascia, si va a fare un'azione insieme e si rimane insieme, non è che si lascia una presa un albero, non era giusto, Teresa, non era giusto. Però il fatto è che avevamo i libri e dalla mattina dopo era diventato un divertimento, Teresa. Aprivi le buste, leggevi il contenuto, se non ti piaceva lo prendevi, lo stracciavi e lo sostituivi. Quante false informazioni che avevo fatto passare, Teresa. Chissà quante cose che non funzionavano, chissà quante volte hanno aperto le buste e in leggenda hanno detto ma no, non può essere così. Ma no, ma davvero, eppure passavano. Certe volte mi veniva anche magari di scrivere finte lettere d'amore. Ho voluto fare tante di quelle cose, Teresa, però non mi sembrava il caso, che la causa era più importante. Ne salvammo tante di vite così. Però non riuscimmo a prevenire tutto. Arrivò una busta e capimmo subito che il suo contenuto era pericoloso. Era ovviamente un'informazione che passava da un comando tedesco ad un altro e diceva che il gruppo Brandenburg, che era il più pericoloso dell'esercito tedesco, sarebbe stato trasferito nelle Marche. Era un segnale evidente che stava per avvenire qualcosa. Qualche forma di ritorsione molto grande. Lo capimmo, lo comunicammo, ma non c'erano altre informazioni perché ovviamente non tutte passavano su carta, no? E infatti, Teresa, dovrei raccontarti ora un'altra storia. Una storia che è accaduta proprio perché noi non ce l'abbiamo fatta. Che non siamo riusciti a prevederlo. È successo lì, sui monti dell'Annunziata, a Rovedino. A Rovedino c'era la banda Oigny, che era ricercata da tempo dall'esercito tedesco. Loro si erano arroccati, cambiavano la stazione di tanto in tanto, ma ormai erano stabili da più di 1 mese, perché era l'inverno, l'inverno era freddo, c'era tanta neve, nessuno poteva arrampicarsi fino a loro. Lì, la banda Paolini, il 9 marzo, riuscì a salvarsi quasi interamente da una rappresaglia tedesca. E dico bene, quasi, perché la banda Paolini si salvò, ma non per abilità, non per destrezza, ma solo per le gesta. Di Gino salta la macchia, detto il rosso. Gino salta la macchia era un uomo rude, di montagna. una tipica intelligenza pratica, uno di quello che vuole sentire poche parole, ma che se gli metti davanti un problema da risolvere, te lo risolve all'istante. Gino salta la macchia a dente rosso. Erano che quando gli altri conversavano, seduti intorno a un tavolo parlando di politica, di tedeschi, di americani, del re, lui usciva fuori senza proferir parola e tornava sempre o con una gallina o con una cesta di pesci in mano. Gino salta la macchia, detto in russo. Lui e la sua mitraglietta breve, che lui amava far galoppare, così diceva sempre. Gino era un uomo rude, non aveva mai preso ordini da nessuno, tranne che dal comandante Paolini. Lui di cui si fidava, era l'unico che poteva permettersi di dirgli: Gino, fai questo, Gino, fai quell'altro. Gli altri non li ascoltavano nemmeno. Quella mattina del 9 marzo, qualcuno avvistò i tedeschi che lentamente stavano salendo per Rovigno e corse dal sentiero parallelo più breve ad avvertire la banda Paolini dell'arrivo. La banda prese velocemente quello che aveva, le armi, le munizioni e quel poco che gli serviva, e si preparò alla fuga. Paolini, il comandante, diede l'ordine a tutti di seguirlo. Gino lo fermò per un braccio e gli disse: andate pure, resto io qua. Paolini provò a convincerlo, ma non ci fu modo. Gino imbracciò la sua preda, uscì fuori dal casupolo e iniziò a farla cantare. E scappava nella folla, si copriva dietro un albero e sparava all'impazzata contro i tedeschi. Gli altri provavano a convincerlo: Gino, vieni via, Gino, vieni via. Non c'era modo di fermarlo. Dai, che faceva cantare questa sua preda. Giusto il tempo di ricaricarla quei pochi secondi e ricominciava il canto. Lui da solo contro i tedeschi, gli altri nel frattempo scappavano su per la montagna e lui per terra continuava a caricare e sparare, e si spostava rapidamente, tanto che quei tedeschi non riuscivano a capire che c'era molta nebbia quella mattina, una scarsissima visibilità, e si sentivano accerchiati da 20, da 50, forse da 100 uomini. Non sapevano che era solo lui vicino con la sua mitraglietta bella che la faceva cantare da solo, e sparava all'impazzata, e tanto che sparava all'impazzata che i tedeschi pensavano di accerchiare questo gruppo che li stava combattendo, e così farlo finito una volta per tutte e trucidarli tutti. Ma non si resero conto di mettersi un plotone di fronte all'altro. Tra loro si spararono, se ne uccisero anche tanti, e forse Gino se la rideva dietro un albero. E tanto continuava, dopo questo scontro a fuoco tra loro, lui riprese a far cantare la mitraglietta, mentre gli altri si allontanavano giù per la montagna. Qualcuno si girava per sentire ancora il canto della preda che arrivava, e Gino rimase così per almeno un'ora, permettendo agli altri di salire su verso l'annunziata e mettersi in salvo. Poco prima di scomparire dietro la montagna, il gruppo si girò e il canto della preda non si sentiva più nessun suono. No, era terminato. Gino fu ferito prima in un braccio, poi rimase fermo questo braccio inutilizzabile steso a terra. I tedeschi finalmente lo trovarono. Questo che doveva essere un gruppo, ma che era solo un cerchio rosso, e lo trucidarono. Vita per salvarne un'altra, Teresa. Beh, ti sarebbe in grado. Nemmeno io. No, no, non ce l'avrei mai fatta. No, è inutile dirlo. Teresa, mi stai leggendo ancora? Lo so, lo sai che mi è lungo questo. È bello, sai, ne tante. Ne rimane solo una ancora, Teresa. E questa ti riguarda. Forse già la sai. È quella che è successa proprio nel paese vicino a casa tua. Nei due paesi, Pozza e il Rito. Perché stanno proprio vicino a San Vito. Vicino dove abiti tu. Forse già lo sai come sono andati i fatti. Ma è arrivato questo racconto. E allora è il caso che ti legga anche questo. Pozza e Unito. Due piccoli paesini che sorgono esattamente alle spalle di Acqua Santa, arroccati tra i monti, raggiungibili solo da un sentiero che collega la Salaria ai monti. Beh, quel sentiero è percorribile se sei in primavera, è percorribile se sei in estate, ma se c'è molta neve è un po' difficile da individuare. Quella mattina dell'11 di marzo di neve ne aveva fatta molta, 2,5 metri, 3 forse. Trovare quel sentiero era praticamente impossibile. Forse giusto qualche cacciatore esperto, qualche uomo di montagna. Di sicuro non un esercito straniero, per quanto attrezzato e per quanto preparato. Ma se quell'esercito viene accompagnato da qualcuno che collabora, che la montagna la conosce, allora forse il sentiero si riesce a individuare. Partirono nella notte spie e collaborazionisti fascisti, vestiti in mimetica tedesca, che facevano fatica anche a dire caput, però provavano a dirlo per confondersi, ma il volto si riconosceva, che guidavano un esercito intero, il comando più potente dell'esercito tedesco in Italia, Brandenburg, e lo portavano su, verso questi due piccoli villaggi dove dicevano c'era arroccato un gruppo di partigiani, guidati da Ettore Bianchi. Beh, si sono presentati all'alba, alle porte di Pozza. E si sa che quando i tedeschi si presentano, non dicono buongiorno. No, hanno iniziato a sparare a quasi tutte le abitazioni che c'erano lì a Pozza. Alle porte, entravano dentro con la gente ancora assonnata e prendevano salumi, formaggi, dei pochi cibi che erano ancora rimasti. Allontanavano le donne, selezionavano gli uomini e li mettevano con le spalle al muro. E guai, guai a chi si muoveva, al primo movimento trucidato all'istante tra le urla strazianti delle madri. Tra loro morì anche Emilio Collina, un giovane di 16 anni, che ebbe il tempo, poco prima di spirare, di riconoscere il suo carnefice, un carabiniere di Acqua Santa. Lo chiamò per nome. Salutami mamma quando la vedi. Gli uomini ancora sopravvissuti vennero radunati dentro un cavallo. I tedeschi erano pronti ad accendere la fiamma di quel capanno, ma furono distratti dai suoni che arrivavano dal villaggio vicino. A poco più di 700-800 metri da Unito era iniziata una sparatoria, e allora si radunarono tutti, si compattarono e andarono verso Unito. Lì c'era davvero il gruppo comandato da Ettore Bianco. Erano almeno una quarantina di uomini e iniziarono una durissima battaglia. Un po' per la conoscenza della montagna, un po' per la capacità migliore di muoversi in mezzo alla neve rispetto ai rischi e di conoscere bene come fare. Riuscirono ad accerchiare un piccolo plotone loro e ne freddarono tantissimi. Poi scapparono verso la montagna e quasi tutti si misero in salvo. Ma i tedeschi, che erano stati costretti ad indietreggiare, vedendo così tante vittime, decisero di dar fuoco all'intero villaggio, casa per casa, anche la casa di Anna Sparapani, una piccola bambina di appena 11 mesi, che piangeva nel suo lettino vedendo la zia che non rispondeva più, probabilmente morta. I tedeschi entrarono e casa in fiamme. Questi avevano portato a pozzo e a lumi i difensori della patria. Proprio loro. Proprio loro, Teresa. Proprio loro. Però adesso che la guerra. Che la guerra è finita, Teresa. Possiamo salirci. Su, a Pozza, venite. Che dici? Ci facciamo una bella passeggiata. Magari ce ne andiamo anche al cimitero. Ti troviamo tutti là. Vostro, ma Cappannini e Raglio, prigionieri tedeschi. Nulla posso darmi della concezione. Chi trova il presente è pregato di farlo avere alla mia famiglia a Iesi, presso il contadino Corvini. Cari genitori, parenti tutti, il mio ultimo pensiero sarà rivolto a voi e alla mia, la nostra patria che tanti sacrifici chiede ai suoi figli. Non piangete per me, vi sarò sempre vicino. Vi amerò sempre anche fuori dal mondo terreno. Voi sarete la mia sola consolazione. Siate forti come mai lo sono stato io. E salutatevi tutti i miei conoscenti, vostro per l'eternità. Bacini alla piccola Maria Grazia, il vostro Eraclio. Troverai tra le costellazioni, storie di resistenza picena, di e con Emiliano Valente, sonorizzazioni originali dal vivo di Carlo Amato. Con Roberto D'Alessandro, autore, attore e regista dello spettacolo Come diventare leghisti in meno di 90 minuti, a Roma al Teatro Ghione dal 14 al 19 maggio 2019. Roberto, ben trovato. Benvenuti, ben trovati a voi, buonasera. Mi è bastato il titolo per chiamarti, guarda. Sì. Racconta. Cosa avrà combinato? Raccontaci tutto. È una riflessione così sulla situazione attuale. Tu sai, ho fatto uno spettacolo che si chiama Terrone, che porta in giro dal 2011 e quindi parla della situazione della dualità nord-sud, no? Del divario, delle reali cause, della vera storia d'Italia, eccetera, eccetera. E vista l'evoluzione che ha preso così la politica italiana, dove ci stava un partito che è nato contro il sud e che poi a un certo punto ha cambiato idea, c'è qualcosa di paradossale, cioè già la storia vera sembra incredibile, è incredibile, se non si legge con le chiavi del meridionalismo, che invece ti danno la giusta visione di quello che è questa nazione, nata appunto sulla dualità, sulla conquista, sul mantenimento di una colonia interna, dove c'è una parte d'Italia che è il sud che mantiene la ricchezza del nord, che altrimenti non potrebbe permettersela. E che ci viene raccontato esattamente al contrario. Poi detto ciò, partendo da questo, diciamo, presupposto inconfutabile, sarà la storia a raccontarcela così, e io sono inventato una storia, diciamo, teatrale, nella quale mi diverto a raccontare questa grande storia che è appunto la nostra. Mi interrogo anche su che cosa possa spingere un meridionale a sostenere un partito come la Lega, che fino a ieri ha detto di tutto e di più contro di noi. Esistono i video, i libri, i giornali, cioè non si può dire ma quello l'ha detto ieri, no, mi sembra strano, non so, vabbè, ieri mi ha dato una coltellata, però è un bravo ragazzo, no, non so, c'è qualcosa di non credibile, non so, c'è qualcosa che non va, e mi interrogo anche se non so se riesco a capire, e soprattutto mi diverto su questa cosa, perché se non si guarda il mondo con occhio dell'ironia non possiamo prenderci troppo sul serio, neanche in vicende così grandi come quelle che stiamo vivendo, per cui rido sopra questa roba, è uno spettacolo che vuole essere divertente, spero lo sarà, e che uno uscendo dice ah, però questa cosa non la sapevo, quest'altra neanche, e che a tavola poi magari invece di parlare di quanto è buono quello che stanno mangiando, ripensano a quello che hanno visto, ecco, cerco di fare sempre questa roba, il spettacolo. Senti, a questo proposito, come l'hai costruito, come è strutturato? In maniera un po' autobiografica, la storia della nascita di questo spettacolo viene così. Io stavo in Castellone già dall'anno scorso con uno spettacolo che si intitola Sud, al Teatro Pione, però poi non riuscivo a trovare la quadra intorno a questo spettacolo, che voleva essere un altro materiale in pratica su quello che era già stato Terroni, fino a quando non mi è venuto in mente questo titolo. Tu sai che io facevo parte di un gruppo che si chiamava I Picari, che negli anni 90, anni 2000 abbiamo fatto una serie di spettacoli sui 90 minuti, abbiamo fatto tutta la Bibbia in meno di 90 minuti, sì. In meno di 90 minuti, tutto sul set in 90 minuti, no, abbiamo fatto una serie di spettacoli su questa tipologia, e mi è venuto in mente questo titolo così in maniera fulminea, l'ho comunicato al teatro che gli è piaciuto molto, adesso vedremo se c'è ragione, non so che ne uscirà fuori, si incuriosisce se la gente viene, se ci troviamo gente fuori che ci aspetta con i mangane, non lo so che succederà. Non sono tenero con la Lega, perché non bisogna esserlo, è un partito che per noi meridionali è assolutamente ferale, fatale, le cronache ci stanno già consegnando alleanze con la malavita meridionale, quello che stanno facendo, quello che fanno da sempre gli imprenditori del nord attraverso i loro partiti con la mafia del sud, quindi non mi stupisce, non sono tenero per niente, cerco, ripeto, sempre di divertire, e il racconto è sempre molto biografico mio, di un attore che sta preparando uno spettacolo al quale a un certo punto gli viene proposta, cosa che diciamo è quasi successa, di candidarsi con la Lega. E allora diciamo che avendo famiglia, facendo l'attore, non famoso, monoreddito, eccetera, allora visti i benefit e quanto prende un parlamentare, il pensiero ce lo fa, che è abbastanza umano, quindi valutiamo diciamo, il materiale umano che abbiamo davanti, ma poi si risolve in una maniera che diciamo l'affido un po' all'idealità, nella realtà non so come andrebbe a finire. Sì, è una storia molto interessante, ribadisco, molto divertente, è un atto unico dove ci stanno tanti personaggi che interpreto io, una specie di ultimi giorni dell'umanità, di Karl Kraus, una cosa del genere. No, ne faccio di meno di personaggi, però insomma racconto questa storia dove ci stanno tutti questi personaggi. Non so, sono sera vedremo l'esito. Una curiosità per quello che hai avuto modo di elaborare. Secondo te cos'è che sta convincendo l'elettorato del Sud rispetto a questo capovolgimento di questo partito? Il fascismo dell'informazione. Non ce n'è un'altra. Se tu li informi, non possono, non sento nessuno in televisione che chiede a questo signore cosa vogliono fare, perché hanno fatto quello che hanno fatto con il federalismo fiscale, quello che vogliono fare con l'autonomia differenziata, come continuano a derubarci, come perché hanno arrestato 43 persone 2 giorni fa in Lombardia. Libero non l'ha proprio messo in prima pagina, cioè come se le cose a loro non riguardasse. Cioè, la Lombardia è la città più corrotta, è la regione più corrotta d'Europa, e non esce da nessuna parte questa roba. La Lega è un partito corrottissimo, tu vedi approfondimenti, immaginate cosa è successo a Napoli e se c'era di mezzo di quei 5 Stelle, De Magistris, cosa potevano fare in televisione d'approfondimenti e invece non vedi nulla. Non viene raccontata la verità. Se alla gente la informi correttamente, io penso che poi si comporti di conseguenza. Cioè viene abbindolata con questa cosa di prima gli italiani, non c'ho approfondimenti in verità, quel cazzo vuol dire, perdona il francesismo, cosa vuol dire prima gli italiani? Poi prima gli italiani all'interno ci saranno prima gli italiani del nord che quelli del sud, prima gli italiani italiani che gli italiani rom, prima gli italiani da vent'anni, cioè, che roba è? È incomprensibile questa cosa. Certo che sulle menti deboli fa presa, sì, è vero, anche io c'ho un diritto. Finalmente uno del sud c'ha da dire contro qualcun altro e si sente alla pari di uno del nord. Non abbiamo capito bene quanto gli facciamo schifo a questi del nord, non si può, a molti, poi il popolo è popolo, c'è tantissima gente che non la pensa così. Fai conto che anche in un'espressione bulgara come quella nelle regioni del nord, come Veneto, Lombardia, la Lega che prende percentuali anche del 60-70% rappresenta comunque un terzo della popolazione, non sono 8 su 10, sono 3 su 10 che la pensano così, però è comunque un numero considerevole. L'informazione è il vero fascismo di oggi. Dovrebbero dare libero accesso a molti meridionalisti in televisione, in radio, sui mezzi pubblici, avessimo la possibilità di informare, di dare voce a gente come Marco Esposito, Pino Aprile, Lino Patruno, ci stanno talmente tanti, informatissimi, documentatissimi, con decine di pubblicazioni prese dalla Ragioneria Generale dello Stato, sono dati tutti ufficiali. C'è lo Svines che fa delle ricerche perfette dove bisognerebbe semplicemente dare i dati, dire le cose vere, spiegarle. Sono sicuro che la gente. Poi invece ci sono i casi giudiziari che li vedremo nel tempo, perché alcuni li arresteranno. No, quello lo stiamo vedendo già dalla cronaca. È così perché uno dice: ah, c'è sto dilagare, chi butta in una storia del genere. Chi vuole fare i soldi facili, chi ha degli interessi, proprio così, in maniera pecerissima, pecerissima. Purtroppo è così, Federico. Non ci possiamo fare nulla perché sono supportati dal sistema generale Italia. La Lega è supportata dal sistema generale Italia. Credo faccia comodo a qualsiasi latitudine dell'arco costituzionale la situazione, chi ci mandi. Ancora questi 5 Stelle che sono informi, non si capisce bene, eccetera, però sono anche un po' pericolosi perché non hanno ancora radicato ancora, perché so, per esempio, ci sono dei 5 Stelle che sono d'accordissimo con la posizione della Lega, per esempio sull'autonomia differenziata, quindi l'autonomia differenziata è una cosa perale. Non l'applicazione del federalismo, mette praticamente in Costituzione per legge che il Sud è inferiore, deve essere inferiore, che una persona che nasce al Sud già oggi ha infiniti diritti in meno, ma in quel caso poi non li avrà per legge i diritti in meno. Cioè non è che possiamo più dire è così perché. Per cui credo che sia uno spettacolo anche necessario, chi ha i mezzi per capire questa roba, farebbe bene a venirla a vedere, perché si forma mettere gli strumenti nelle discussioni, nei dibattiti, non è piccola cosa. Mm-hmm. Poi piano piano sta crescendo un sentimento sempre maggiore, meridionalista, per quanto non viene raccontato, non abbiamo spazi televisivi, non abbiamo spazi sui giornali, però ci difendiamo con quello che possiamo e questo spettacolo è un contributo a questa grande lotta. Ripeto, sempre col sorriso, perché voglio dire, tanto non pensiamo, ecco, non è che possiamo, poniamo semplicemente un motivo di discussione, non dà soluzioni, che altro, non ne dà. Certo. Io pongo semplicemente il motivo di discussione e poi mi auguro che la discussione possa essere portata avanti anche da gente che so vogliono fare politica, ci stanno tanti di partiti meridionalisti che si stanno attrezzando. Credo che ci sia anche la possibilità di avere una parte di popolazione dalla nostra parte, ben informata. Comunque il fascismo di oggi vede quella informazione. Roberto, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti internet per saperne di più sul tuo spettacolo e più in generale sul tuo lavoro? C'è il mio sito che è www.robertoalessandro.it, trovate tutte le informazioni sul sito del Ghione che è www.teatroghione.it, oppure ci sto anche su Facebook, ci stanno le mie pagine Roberto D'Alessandro o Terroni lo spettacolo, dove ci sta anche un altro materiale rispetto a questa roba. Bene. Poi c'è un canale YouTube dove ci sono degli spettacoli messi là, c'è anche Terroni, per chi ha voglia di andarla a vedere, a rivedere, nell'edizione del 2011 fatta al Quirino a Roma, Teatro Quirino Vittorio Gassman. E quindi nulla, dal 14 al 19 di maggio, da martedì a domenica, a 3 sera alle 21, domenica alle 17, spero di vederti a teatro. Sì, sì, credo proprio di venire. Allora, come diventare leghisti in meno di 90 minuti? Un saluto e un ringraziamento all'autore, regista, attore Roberto D'Alessandro. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie, venite a teatro. Ciao. Ciao. Con l'autore e attore Andrea Cosentino per parlare del suo spettacolo Not Here, Not Now, che sarà a Roma all'Appi Teatro giovedì 16 maggio 2019. Andrea, ben trovato. E ben ritrovato, direi. Ciao Federico. Ci racconti, questo è un tuo vecchio cavallo di battaglia? Sarà un 4-5 anni questo spettacolo. Questo è il mio spettacolo performativo, diciamo, lo spettacolo con il quale ogni spettacolo è un modo per fare i conti con qualcosa. Questo è lo spettacolo in cui faccio i conti con la mia appartenenza e disappartenenza nel circuito dell'arte contemporanea, del performativo, del qui e ora, insomma, gli argomenti, insomma, che mi piacciono, mi interessano, mi appassionano, di cui faccio parte, e allo stesso tempo tutto ciò per cui parteggio contemporaneamente, di tutto ciò per cui parteggio sento bisogno di prendere le distanze, insomma, per avere una distanza critica anche verso quello che faccio, diciamola così. Ecco, come aveva avuto origine quest'idea? Molto casualmente da una mia partecipazione a una mostra di Icon su Marina Abramovic al PAC di Milano, insomma, che mi ha dato lo spunto per fare delle riflessioni, insomma, su quello che è il rapporto tra il teatro, quello che io faccio, quello con i nasi finti e le parrucche, e il presunto ascetismo dello qui e ora, dell'arte performativa, delle abrasioni, del far male al proprio corpo come testimonianza di un'autenticità. Ecco, in qualche modo tutto questo spettacolo è un gioco, anche se anche ovviamente nel mio stile, è surreale a mettere a confronto queste due concezioni dello stare in scena, diciamo così. Cioè, il punto è se è più vero il sangue vero mostrato in scena o il ketchup finto che io, insomma, mettiamola così. Ecco, a proposito della messa in scena, cosa si troverà davanti il pubblico? Come molti miei lavori, si troverà davanti molte cose, molti pezzi di un puzzle che si ricomporrà, si spera alla fine, insomma, si troverà davanti una retrospettiva filmata di Marina Abramovic, ovvero Marina Strusovic o Marina Abramovic, dove io vestito da cretino con un naso finto, insomma, io in qualche modo incarno fintamente una parte di questo spettacolo, una Marina Abramovic un po' fantasiosa, quindi si troverà una serie di video che fa una retrospettiva vero finta del artista serba, si troverà davanti io che discuto e faccio di parte con contemporanee e si troverà davanti invece una vera e propria performance artistica dove appunto io mi dissanguo con il ketchup. Quindi c'è un filo conduttore, non sono tutte istantanee scollegate. No, assolutamente, il filo conduttore c'è, ma va conquistato, come dire, non è mai una narrazione lineare, insomma, è un collage di scene, di punti che in qualche modo alla fine trovano una loro unitarietà. Secondo me la loro unitarietà in questa performance di un bacio dove con lo sangue di ketchup disegno su un pannello bianco la scritta BUA. E questo secondo me è la sintesi di questo lavoro, appunto, se il dolore, la sofferenza, l'intimità è qualcosa che si può mostrare senza filtri in scena, oppure forse non sia meglio usare degli artifici per meglio raccontarlo. È una domanda senza risposta, ecco. Certo. Non pretendo certo di dare risposta. Che percorso ha fatto finora? È uno spettacolo che io ho pensato per farlo girare soprattutto nei circuiti, non tanto del teatro quanto proprio dell'arte contemporanea. In realtà alla fine fatalmente vado a girare per teatri, però in alcune occasioni ho avuto, ed è stato molto più divertente, perché è un oggetto, spettacolo, performance che deflagra in maniera più esplosiva, più divertente quando si innesta nei luoghi deputati all'arte contemporanea. Quindi quelle poche volte, insomma, in cui l'ho fatto in contesti di musei, gallerie, eccetera, questa cosa è stata particolarmente divertente, credo. A questo punto ti chiedo anche al momento su cosa sei impegnato, Andrea. Porto sempre in giro le mie cose, i miei cavalli di battaglia, la mia vecchia telemomò che proprio ieri sera ero spin time a farne pezzetti, insomma, che uso come strumento per inserirmi in situazioni socioculturali che secondo me ha molto senso, insomma, come dire, coltivare. E poi ho un paio di progetti, insomma, sempre più coniugando il mio modo di stare in scena alla musica, al jazz in particolare, quindi ho un paio di progetti che riguardano mie future collaborazioni con musicisti e compositori contemporanei, cui tengo molto, ma insomma per ora non ne parliamo troppo. Anche questo impegno del 16 ha una sua nobiltà, visto che parteciperai all'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti alla Rassegna. Assolutamente, sì, è quello che dicevo prima, insomma, anche usare spettacoli di repertorio per entrare, insomma, in luoghi, in contesti dove è utile fare cultura, dove è utile fare battaglie culturali, mi sembra una cosa giusta e doverosa per un artista, tra virgolette, contemporaneo. Quindi andare in questi tipi di luoghi, insomma, più difficili, diciamo, mettiamola così, che non il Teatro d'India o il Teatro Argentina, mi sembra una cosa che ho il dovere e anche il piacere di fare, insomma, per quanto riesco. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? I riferimenti web, ma io sono ormai di una generazione poco web, io sono la pagina Facebook che è Andrea Cosentino, pagina Facebook e tutto questo. Ah no, beh, possiamo darvi il web di Aldes, perché è la compagnia, insomma, con cui lavoro, che gestisce i miei spettacoli, che è aldesweb.org, credo. Bene. Nient'altro posso darti. C'è anche l'evento Facebook dell'appuntamento che ricordiamo con lo spettacolo Not Here, Not Now, a Roma, all'AP Teatro, all'Accademia Popolare dell'Antimafia dei Diritti, giovedì 16 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore, attore Andrea Cosentino. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, e crepi il lupo e un abbraccio. Ciao Andrea. Ciao. Con Lorenzo Deliberato, uno dei curatori della rassegna teatrale I Giorni della Comune, a Roma, Teatro Studio 1, dal 2 al 26 maggio 2019. Lorenzo, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Raccontaci. Stiamo organizzando, cioè abbiamo organizzato, perché la rassegna in realtà è iniziata ieri, è iniziata anche discretamente bene. Questa rassegna al Teatro Studio 1, che si chiama appunto, come hai già detto, I Giorni della Comune, che è praticamente il risultato di un bando che aveva indetto il Teatro Studio 1 per poter gestire il teatro per un mese, e noi abbiamo vinto questo bando, e la nostra proposta è che è stata accettata, diciamo, anche con grande entusiasmo. Era quella di dedicare un intero mese di programmazione del Teatro Studio 1 ad un teatro che secondo noi, che siamo in quattro, io sono Lorenzo, poi c'è Matteo Ziglio, Lorenzo Garufo e Alessandro De Feo, che sono i miei tre colleghi, ad una tipologia di teatro che noi quattro pensiamo stia andando sempre di più scomparendo, ovvero il teatro politico, quindi non tanto il teatro sociale che va tanto di moda oggi, ma un teatro che dal sociale si sposti ancora di più sulla politica, quindi sulla società, con un occhio di riguardo verso delle problematiche e delle tematiche molto più vicine al disagio proprio dell'uomo all'interno della società come istituzione. E quindi inevitabilmente ci siamo ispirati come nostro punto di riferimento principale a quello che secondo noi è uno dei più grandi, se non il più grande autore di questa tipologia di teatro, che è Bertolt Brecht. E quindi noi abbiamo praticamente organizzato il mese in questo modo: ci sono due produzioni del nostro collettivo, uno spettacolo con la regia di Alessandro De Feo e con Alessandro De Feo come unico attore, che ha debuttato ieri sera e sarà in scena ancora fino a domenica, tutte le sere alle 21, poi domenica alle 18, che si chiama Le Grand Ball, che è uno spettacolo ispirato al personaggio di Ball di Bertolt Brecht. E lo spettacolo che chiuderà invece la rassegna dal 23 al 26 maggio con la mia regia, che si chiama Mutter, che è un testo originale che io ho scritto ispirandomi alla storia di Madre Coraggio e i suoi figli. All'interno del mese invece noi ospitiamo quattro compagnie diverse, due delle quali portano anche loro degli spettacoli ispirati a personaggi e testi di Brecht. C'è la compagnia di Valerio Peroni e Alice Occhiali, che per esempio la settimana prossima, il prossimo weekend, porterà in scena un altro lavoro molto molto interessante, molto particolare, che è ispirato a sua volta al personaggio di Ball, però in maniera totalmente diversa rispetto allo spettacolo di De Feo, perché sarà ambientato all'interno di una balera. E quindi sarà uno spettacolo che mescolerà il teatro di prosa, la danza, la musica, quindi sarà un'esperienza molto più completa dal punto di vista artistico. E poi uno spettacolo di cui noi siamo assolutamente onorati di ospitare, perché è del maestro Sergio Basile, con la partecipazione di un altro grandissimo maestro del teatro pentitano italiano, che è Giancarlo Sammartano, che racconta la vera storia del processo che Bertolt Brecht ha subito negli Stati Uniti nel 1950, mi pare, giù di lì, adesso non ricordo precisamente l'anno, durante la caccia alle streghe del senatore McCarthy. E quindi la storia che porta in scena Basile è proprio il vero processo. Noi siamo riusciti a trovare gli atti del processo, che verrà appunto raccontato da Sergio, che interpreterà Bertolt Brecht, e Giancarlo, e poi anche altri ospiti invece interpreteranno i vari inquisitori, avvocati, e poi ci saranno immagini di repertorio e quant'altro. Invece poi ci sono altri due spettacoli che noi ospitiamo, che sono L'Incanto, che è stato scritto da Enrico Sacca per la regia di Paolo Zaccaria, e Barbie Time, che sono due spettacoli drammaturgia contemporanea, diciamo, che però noi abbiamo selezionato e abbiamo scelto come spettacoli di questa rassegna, perché ovviamente i temi trattati ci sembrano riflettere, diciamo, i temi che noi volevamo portare avanti nella nostra rassegna, diciamo, brechtiana. Naturalmente la regia di Barbie Time è di Guido Del Vento e Alessandro Di Marco. Oltre a questi spettacoli, noi proponiamo ogni domenica dei brunch, durante l'ora di pranzo, che noi abbiamo definito brunch con racconto, dove praticamente ci sono delle persone, ma chiunque, non solo attori, che se hanno voglia di raccontare una storia, una propria storia personale o di un qualsiasi altro autore che non sia né Brecht né dei grandi attori del teatro italiano, può ritagliarsi uno spazio di non più di 5-10 minuti per, diciamo, aiutare i commensali. In alcuni giorni poi, durante il mese di maggio, ci saranno degli incontri con quelli che noi abbiamo definito gli incontri con i maestri del teatro brecchiano italiano, che purtroppo sono ancora giorni da definire a seconda della disponibilità dei protagonisti. Questi incontri saranno appunto con Giancarlo San Martano, Sergio Basile e con Ugo Maria Amorosi. E questo è, diciamo, quello che potevo dirti su tutta l'organizzazione. Ecco, per ulteriori dettagli ci dai tutti i riferimenti web? Sì, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama appunto il Collettivo di Giorni della Comune, all'interno della quale ci sono tutte le informazioni sia sugli spettacoli che sugli eventi, e poi c'è anche l'evento stesso dei Giorni della Comune di tutto il mese di maggio, che stiamo sponsorizzando sempre su Facebook, su Instagram, su ovunque possiamo sponsorizzarlo. Allora ricordiamo la rassegna teatrale Giorni della Comune a Roma al Teatro Studio 1 dal 2 al 26 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Lorenzo Deliberato. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, a presto e venite a vederci, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Con Lucia Calamaro, ideatrice del progetto Scritture, sei voci della drammaturgia italiana, a Roma, Teatro India, 11 e 12 maggio e poi 16 e 19 maggio. Ben trovata! Ciao a tutti, ciao. Ci racconti? Guarda, un progetto che ha una sua complessità nella genesi, perché nasce da una serie di laboratori fatti a Sivizzano 27, che è un posto che si muove molto, in cui succedono molte cose nel Pigneto, gestito da Emilia Verginelli. E quindi durante un anno e mezzo io ho fatto lì dei laboratori di drammaturgia, convinta come sono che non ci sia assolutamente più bisogno di attori, ma che ci sia un grande bisogno di autori. Basta con la formazione dell'attore, pieno di attori bravi che non lavorano. E poi piano piano, a sorpresa, devo dire, erano laboratori proprio per attori che volessero scrivere, e quindi per diventare indipendenti, insomma, me la canto e me la suono. E piano piano è stato bello rendermi conto che alla fine ci sono dei talenti, evviva, qualcosa si muove, cioè se tu dai le possibilità alle persone di esprimersi e più o meno le introduci in un modo di pensare diverso a quello a cui sono abituato, effettivamente hanno delle cose da dire. Quindi abbiamo fatto tantissimi laboratori e insieme poi a Carrozzerie Notte, che è entrato a rinforzo dentro questo progetto con la loro organicità e la loro capacità incredibile di gestire, credo, qualsiasi cosa gli si dia in mano. A Carrozzerie Notte è questo posto dove ancora succedono cose, anche lì, dietro, al di là del testaccio, diciamo. Quindi due posti centrali, secondo me, per la Roma che fa cultura in modo indipendente, Finizzano 27 e Carrozzerie Notte. Abbiamo fatto una prima selezione da 154 partecipanti, mi sono arrivati 54 testi. Di questi 54 testi ho fatto io una prima scrematura di 12 testi. Questi 12 testi hanno presentato uno studio di 20 minuti a Carrozzerie Notte. Poi c'è stata una giuria sgangherata, in quanto fatta praticamente non solo di addetti al lavoro, addetti al lavoro c'erano effettivamente i ragazzi di Carrozzerie Notte, poi Graziano e Dio, dopodiché erano tutte persone normali nella giuria, cioè che non si occupavano di teatro. E da lì sono usciti fuori i 6 testi che di questi 12 ci avevano convinto di più, e lì è entrata in corsa con un guizzo selvaggio incredibile per diciamo un'amministrazione romana, e invece l'ho fatto Teatro di Roma ha fatto un guizzone dicendo: vogliamo sostenere questo progetto, ci sembra molto bello, ci sembra che sia il momento che anche a India succedano questo tipo di cose. E quindi loro hanno preso in corsa questa selezione e gli danno un sostegno logistico. C'è stato un campus di 30 giorni a India in cui i 6 giovani autori Avevano accesso con i loro attori e con qualche collega regista che passava a dargli una mano a Teatro India, quindi alle sale di Teatro India, bellissime. Sono stati lì in residenza, hanno riscritto delle parti di testo sotto la tutela sia mia che di Graziano Graziani, che facciamo i tutor in questo progetto, nel senso ogni tanto passiamo e diciamo no, questo no, sì, questo sì. Questa è la nostra capacità in questo momento, cercando di lasciare gli autori il più liberi possibile, perché adesso è il momento di diventare anche registi, quindi di, dopo averlo scritto, di mettere insieme, mettere in piedi uno spettacolo. E il frutto di tutto ciò si vedrà in questi weekend di cui tu parlavi all'inizio, perché oramai questi che erano idee su un foglio di carta sono diventati spettacoli. Ecco, la cosa bella è che, almeno per me, aver seguito il processo dal primo giorno di Genesi a poi vedere effettivamente lo spettacolo col pubblico e poi finalmente lasciarli soli, sperando che qualcuno si innamori, no, se non dei sei progetti, almeno di uno, due, insomma, che sia interessato a questi spettacoli e che li voglia da qualche parte. Ed è così che nasce uno spettacolo completamente autogestito e autofinanziato fino all'entrata di Teatro di Roma, che dà un sostegno simbolico ma cospicuo, che non dirò, comunque emozionante, diciamo, per un giovane autore e che fa propria, che fa diventare questi testi una produzione di Teatro di Roma, che già, diciamo, poter dire sono produzioni di Teatro di Roma e tanta roba in questo momento per un giovane artista di teatro. Questo è. Senti, avranno poi vita autonoma o in qualche modo ci sarà un accompagnamento anche del progetto? No, l'accompagnamento finisce qui. Ok. Ed è stato sterenante, potremmo dire. quindi quello che gli dico è a tutti, a male parole, dico adesso ciaone, adesso fate voi, ecco i numeri di telefono, chiamate, andate avanti nel mondo e siate felici o infelici, siate come potete essere, e più di questo okay. Non si poteva fare. Senti. No, si crea un bel antecedente, ecco, se posso sì, rubarti ancora sì. Un minuto, la cosa bella è che si crea un bel antecedente di scuola, di teatro, da zero a tutto, cioè non la scuola di teatro che forma attori, ecco io le chiuderei tutte, ma la scuola di teatro che forma a autogestire uno spettacolo con pochissimi soldi, zero aiuti. Ecco, questo secondo me è il lato anche più interessante della cosa. Sono testi nuovi, scritti da gente che ha stile, che ha una penna, quindi, e che oltretutto ha avuto anche il coraggio di esporsi, chi in prima persona, chi di chiamare i quattro amici tuoi che ci hai sempre avuto, adesso è il momento di dimostrare quanto siete amici, dovete venire a fare questo spettacolo con me. Quindi è tutto fatto con grande passione, che è la cosa che uno non dovrebbe dimenticare mai di sì, mettere in gioco quando sì, fa arte e anche quando campa in generale. Lucia, considerato che hai messo mano, hai visionato tanti lavori, che impressione ti sei fatta nel complesso? Ma guarda, più positiva che me, pensavo davvero peggio. Secondo me c'è tanta gente di 20 anni, molto giovane, che ha uno stile e non ha la struttura, cioè ovviamente no, mi sono arrivato a dei testi molto acerbi a livello poi di che cos'è un testo teatrale, ma che già avevano delle penne, cioè c'era un modo di guardare il mondo, di raccontare il mondo estremamente originale. Ripeto, tutti questi sono attori, quindi è gente che è stata formata dentro le scuole, scuoline, scuolone, per fare l'attore. Quindi secondo me c'è davvero speranza per una drammaturgia italiana che non debba appoggiarsi sulla drammaturgia inglese o sulla drammaturgia francese o sulla drammaturgia tedesca. Diciamo, c'è la possibilità che questi ventenni, questo periodo che in fondo del teatro italiano che ha riscoperto il raccontare, non necessariamente un presente, ma il raccontare storie interessanti per chi le ascolta in questo momento, secondo me c'è una buona speranza che le prossime generazioni da 10-15 anni, cioè quando questi ventenni acchiapperanno un po' di più in mano la loro tecnè sapranno come gestirla meglio, che arrivino delle cose belle, davvero belle. Ecco, quindi è molto positivo, secondo me, questo lavoro che è nato per caso e che poi è diventato questa rassegna. Quindi quando il caso diventa un oggetto specifico così visibile, qualcosa vorrà dire alla fine, no? Sì, la fortuna aiuta gli audaci. Allora, due sessioni per un totale di 6 giorni, immagino ogni spettacolo una giornata a disposizione. No, guarda, ci sono ogni giorno 2 spettacoli e lo fanno, ogni autore lo fa 2 volte, così non muore nella prima che dice oddio oggi ho fatto schifo, ho fatto stato orribile. Gli diamo la possibilità che quello che io vorrei tanto che mi dessero anche a me, invece di farmi queste prime secche che ancora mi continuano a fare, cioè debutti e poi muori per un po' di tempo perché magari il debutto era mezzo storto per 1000 motivi, e cioè c'hai la prima e c'hai anche la seconda, quantomeno ci capisci qualcosa di più, ecco, sì. Quindi sono 2 repliche per autore, gli spettacoli sono 1 alle 6:30, 1 alle 8:30, il prezzo politico generosamente dato da Teatro di Roma è 5 euro a spettacolo, quindi siamo molto contenti anche di questo sostegno da parte dell'istituzione che ha capito pienamente la qualità specifica del progetto, e ci sarà anche il bar aperto a Teatro India, quindi aspettiamo davvero un po' di gente che venga lì per riabitare questo posto, discutere dei testi, discutere con gli autori, fare anche le critiche, fare quello che vuole, prendersi un aperitivo fra uno spettacolo e l'altro. Sono spettacoli corti di 50 minuti, massimo 60 minuti ognuno, quindi l'impegno non è neanche così esagerato, e poi è primavera, quindi è il miglior momento per andare a India. Un'ultima curiosità anche rispetto alle considerazioni che si fanno rispetto al mondo artistico in questo periodo e al genere. Autori e autrici? Sì, sì. Abbiamo 4 autrici e 2 autori. Perfetto. Quindi c'è di tutto. C'è incredibile. Di tutto. No. Con bello spettro, il più giovane ce n'ha 26, il più grande ce n'ha 35, mi sembra. Bene. Questo è lo spettro d'età. E allora ricordiamo il progetto Scritture, 6 voci della drammaturgia italiana a Roma, Teatro India, 11 e 12 maggio e poi dal 16 al 19 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Lucia Calamaro. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto! Ciao Lucia. Con il fotografo Tano D'Amico per presentare la sua mostra dal titolo Guerra ai poveri a Roma al Centro Sperimentale di Fotografia CSF Adams dall'11 maggio al 7 giugno 2019. Tano, ben trovato. Buongiorno a tutti, un grande abbraccio a tutti, che buongiorno, qui un grande abbraccio con dei baci a tutti, come sempre. Ci racconti di questa mostra? Dunque, in primo luogo è una piccola mostra, è una mostra di 20, di 25 immagini, e di cosa parla? Parla dei miei incontri di questi ultimissimi anni, le persone che io ho conosciuto in strada, e vorrei dire mentre si battevano in strada, per togliere i loro bambini dall'inferno in cui vengono obbligati a vivere. Quindi in primo luogo un omaggio alle madri che tentano di tessere una vita degna di essere vissuta, di tessere una vita per i loro figli in luoghi in cui è molto difficile vivere una vita degna di essere vissuta. Sono incontri, sono attimi, sono proprio attimi che rischiarono un po' il buio di questi anni, il buio che io ho visto nel nostro paese in questi ultimi anni. Perché? Perché ho pensato sempre che il nuovo, che i cambiamenti, i movimenti del nostro paese si presentino sempre come dei lampi, dei lampi. Perché? Perché il nuovo compare come dei lampi, un modo di mettersi insieme, uno sguardo, un gesto, delle persone che si abbracciano, delle persone che piangono, delle persone che tentano di opporsi, sono attimi. E allora chi non vede quegli attimi, non entra in sintonia con quegli attimi, non aspetta quegli attimi, è chiaro che non li vedrà mai. Bisogna aspettarli, sono attimi che vogliono essere attesi, aspettati e accolti. Io ho tentato di farli, questo è un campionario piccolo, appunto di 25 immagini, che può crescere, magari trovando un posto più grande, trovando una volontà, una sete di nuove immagini, si può proporre delle altre puntate. Quali sono i luoghi a cui si riferiscono queste foto? Sono tutti cittadini? In primo luogo sono le nostre città con le periferie, ma soprattutto il centro della nostra città e il centro delle grandi città come per esempio Bologna, forse Milano. Ecco, perché? Perché molte grandi lotte, e oserei dire purtroppo battaglie, si combattono nelle strade dei nostri centri. E anche qui c'è una differenza tra quello che vedevo quando andavo a scuola io e quello che si vede oggi. Oggi si vede una indifferenza, sì, ma si vedono in centro degli episodi un po' terribili, cioè per esempio ora uscendo dal dramma, da questa bellissima avventura anche, uscendo, noi abbiamo visto in piazza i minatori sardi picchiati, gli operai sardi picchiati, le donne picchiate, nel deserto della città, nell'indifferenza della città. Quando ero giovane io, ma non per dire che quando ero giovane, ecco, almeno c'erano degli altri giovani che si interessavano, che condividevano. Adesso ce ne molti, ma molti meno. Chi in mezzo ai guai sono guai suoi, cioè non sono condivisi i guai. E spesso anche le lotte, le loro lotte, che sono le uniche lotte, sono gli ultimi che si sono opposti nel nostro paese. Gli altri purtroppo hanno finito con l'accettare tutto. Ora, che dire ancora? Si vede in quelle immagini un popolo nuovo che cambia sempre. Perché? Perché un popolo, si vedono i volti di chi ha attraversato il deserto, di chi ha attraversato il mare, si vedono i volti anche di quelli che hanno attraversato l'indifferenza, ma tutti questi volti, è bello questo, si guardano, tutti questi volti trovano il modo di costruire quello che io penso sia un ceto nuovo, che non abbiamo mai visto, vorrei dire un popolo nuovo, un popolo fatto da persone che sono vissute qui e da altre che sono arrivate qui e che hanno capito che debbono mettersi insieme per tentare di vivere. Tano, per seguire questa mostra, ma anche più in generale il tuo lavoro, e sul web c'è un tuo sito, tuo spazio? Purtroppo non ho mai acquistato una dimestichezza con i nuovi mezzi, però bisogna dire che vivo nei siti altrui. Quando io vado in internet e batto il mio nome, vengono fuori tantissimi riferimenti, ma proprio tanti tanti, e brandelli di lavori miei che compaiono di qua e di là. Quindi, ma non ho un sito mio. Però comunque della mostra ho visto che c'è l'evento Facebook, è già un punto di riferimento, insomma, per chi fosse interessato. E allora ricordiamo la mostra Guerra ai poveri a Roma, al Centro Sperimentale di Fotografia CSF Adams, che è a Monteverde, dall'11 maggio al 7 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al fotografo Tano D'Amico. Tano, un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo alla mostra. Grazie, grazie, grazie, ciao, ciao. L'agenda della settimana teatrale romana con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Simone, ben trovato. Ma ben trovati tutti quanti voi, a quanti se ne ascolta. Indiscriminatamente. Sembra il minimo, insomma. Insomma, e poi magari andare a teatro con ognuno di loro, perché no, sono anni che consigliamo spettacoli, chissà mai che qualcuno non sia venuto a teatro con noi a nostra insaputa, a nostro malgrado. Beh, qualcosa è successo perché me l'hanno riferito proprio gli artisti. Ah, ecco, gli uffici stampa, sì, sì, sì. Questo mi fa piacere. Allora, Federico, dunque, andiamo a vedere un po' che cosa offre questa settimana, che è una settimana un po', come dire, pian piano di chiusura, no? Delle stagioni, sono rimasti pochi spettacoli nei vari teatri, però, insomma, qualcosa da vedere lo abbiamo senza dubbio. E io partirei proprio dal già citato Studio 1, Teatro Studio 1, dove i giorni della Comune, questa rassegna teatrale, infatti che alla fine di maggio, presenta ben due lavori e li vado a inquadrare un pochino. Allora, si tratta di L'Incanto di Enrico Saccai e Paolo Zaccaria, che dal 16 al 19 maggio presenterà questo lavoro nel settore drammaturgia contemporanea. C'è un locale di dismissione, la scena si apre con due uomini che sono in quello che resta di un ristorante che si chiama Da Giorgio. Uno è svenuto, imbavagliato, l'altro sta finendo di legarlo alla sedia con una corda. Da fuori ci sono altre voci, quindi una situazione un po' strana, particolare, molto pinteriana, per inquadrare un po' quello che sarà il rapporto tra sequestrato e sequestratore, insomma, qual è, da dove viene, insomma, la loro storia e che tipo di relazione abbiano. Quindi 16-19 maggio L'Incanto, stesse date nell'altra sala con 1947 Allarme Rosso Hollywood, ovvero sia McCarthy contro Brecht. Sappiamo tutti di Bertolt Brecht, ebreo, tedesco, che riuscì a fuggire in America prima delle leggi razziali. Sergio Basile ce lo porta negli Stati Uniti d'America, appunto, nel 1947, dove comunque non se la vedrà benissimo perché è iniziata la caccia alle streghe del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Joseph McCarthy, meglio noto come McCarthyismo, che ricorda appunto dei documenti e delle testimonianze legate anche a poesie e tracci delle opere teatrali di Brecht sulla sua sulle inchieste, insomma, che saranno ai suoi danni, insomma, accusato di attività filocomunista. Questo per ciò che riguarda il Teatro Studio 1, mentre andremo anche al Teatro Hop-Hop di Via Giulia, dove dal 14 al 19 maggio andremo a vedere un lavoro firmato da Giovanna Donini, Virginia Zini, Anna Gaia Marchioro, che lo interpreta insieme a Giulia Maurucci. Quella compagnia si chiama Le Brugole, l'abbiamo già vista e segnalata più volte, torna a Roma, una compagnia, diciamo, di base milanese, che torna a Roma con Modern Family 1.0. Questo lavoro parla appunto di famiglia, famiglia di tanti diversi, a volte felici, a volte no, insomma, andare a citare la Karenina di Tolstoi. C'è una sera in famiglia, appunto, a guardare le diapositive con tutti i presenti, una sorta di legame con un mondo altro, quello delle fotografie, che sempre nelle famiglie accade. Si entra nel vivo in casa delle due protagoniste, dove appunto uno spettacolo comico racconta la storia di una donna che ama le donne, ma che ama anche l'idea di avere un figlio con la propria compagna. E questo un po', diciamo, sotto nella commedia è il sottotema. Lo andremo a vedere dal 14 al 19 maggio al Bobo Theater. Ancora, allora, Teatro Torlonia per due lavori. Qua 13 maggio, stasera esattamente, per vedere l'ultimo appuntamento del focus dedicato a Roberto Bolaño che Vittorio Di Marca, la compagnia del Meta Teatro, porta al Teatro di Roma. Dolores, la madre dei poeti, Arturo Ascianigheri, Anna Paola Vellaccio, una donna avanti negli anni, una giramondo dell'America Latina che viveva tra Città del Messico, come una rifugiata ed era amante della poesia. Questa Dolores, che appunto durante la rivolta studentesca a Piazza delle Tre Culture, Città del Messico, ottobre del 68, che portò al massacro di 500 studenti, Dolores si nasconde nei gabinetti della vicina università. Questa è la vicenda che Bolaño ha raccontato, Bolaño in realtà scrittore cileno, che racconta di una vicenda messicana, 14 maggio per il famoso Bolaño di Pippo Di Marca al Teatro Torlonia. Stesso teatro per domani, in realtà, uno degli appuntamenti di questa nostra patria e il mondo intero, il Circolo Gianni Bosio, proprio al Teatro Torlonia, sta curando questo lavoro dedicato alla memoria e ai popoli del mondo. Questa è l'occasione per Prima di Ultimi e Prayer Rond, Dir con Moni Ovadia, con Albert Florian Mihai alla fisarmonica. È il piccolo contributo di Moni Ovadia alla battaglia contro ogni razzismo, una serata per raccontare gli ebrei e i rom tra musica, riflessione, storie e anche l'umorismo, perché no, insomma, di cui Moni Ovadia ci ha sempre dato prova. Popoli senza terra che hanno mostrato al mondo, insomma, che non ci sia, come non ci sia bisogno di confini e come la burocrazia, gli eserciti e le barriere sono controproducenti appunto al mondo intero, che è la nostra patria. 15 maggio domani a Teatro Torlonia con Prima di Ultimi ebrei e rom. Poi andiamo al Teatro Eliseo per il debutto 16 maggio, ma sarà fino al 26 di questo Spogliatoi, staccato, titolo abbastanza eloquente della foto di scena che vede tanti uomini in uno spogliatoio, in cui però insomma il Toi è il giocattolo e il Luciano Melchion, che è il regista, parla di appunto questo luogo in cui l'allenatore incide i giocatori prima della partita, il pubblico è un invisibile voyeur che entra in un gruppo guidato dall'inquietante Angelo, avulso da quel contesto, eppure arbitro delle anime. Sono 11 monologhi, storie di calciatori toys e consapevoli mostri di questa nostra contemporaneità. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro Eliseo dal 16 maggio al 26. Continua invece scrittura il progetto del Teatro di Roma dedicato alle nuove drammaturgie e questa settimana ci saranno ancora presentazioni di lavori dal 16 al 19 di maggio per appunto Anche i cori russi mi consolano, Ode a un padre militante di Maria Giulia Colace. Poi avremo anche Il mondo cieco di Costanza Pannacci, sempre il 16 e 17 maggio entrambi, anche questo con tre attori. E poi andremo a vedere 18 maggio Romanzo di una anamnesi con Sara Parziani, che ha anche scritto il testo, e Amo i paragrafi corti, lezioni introduttive sulla solitudine, che è stato scritto da Maria Silvia Greco. Questo è ciò che andremo a vedere al Teatro India per il progetto scritture curato da Lucia Calamaro assieme al Teatro di Roma, a degli spazi della città sempre più necessari perché sempre più vengono meno, come appunto lo spazio Fivizzano, appunto, e Carrozzerie. No. Ancora qualcosa da ricordare senza dubbio. Al Vascello andremo a vedere due lavori. Il primo è, in ordine di apparizione, va? Il primo è dedicato alla compagnia Enzo Cosimi, compagnia di danza molto, molto famosa. La bellezza ti stupirà per oggi e domani, 14 e 15 maggio, e 18 e 19 invece I Love My Sister. È tutto parte di un progetto che si chiama Ode alla bellezza, e sono tre creazioni, una l'abbiamo vista la scorsa settimana, sulla diversità, una riflessione su figure emarginate nella società contemporanea. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro Vascello questa settimana, ma non soltanto, perché c'è anche un altro spettacolo che mi preme ricordare, un Riccardo III, Suite d'un mariage, 18-19 maggio nella Sala Studio, però spettacolo scritto e diretto da Auretta Sterrantino, che dirige appunto questo lavoro interpretato da Michele Scarvello e Giulia Messina, ed è appunto un lavoro di enfasi estetica che esplora e riesce a far dialogare corpo e voce, luci, suoni e musica. Questo è ciò che ci viene dichiarato, ed è un duello erotico, un gioco conflitto per amore. Questo a Teatro Vascello per questa settimana. anche segnalare un paio di cose ancora. Beh, una ne abbiamo anche parlato, mi fa piacere ricordarlo, è stato meraviglioso. Il 16 di maggio, giovedì, No Fear Not Now per Andrea Cosentino allo spazio, all'Accademia Popolare dell'Antimafia, che indubbiamente è uno spazio da assolutamente frequentare. Ancora due spettacoli vado a segnalarli per questa settimana. Uno, diciamo, sono un po', diciamo, i protagonisti della settimana, a mio modo di vedere. Uno è Alle Carrozzerie Notta, sarà 16 e 17 maggio, e quindi giovedì e venerdì, Tropicana, la compagnia è Frigo Produzioni, compagnia milanese, che ha fatto questo lavoro dedicato al brano famosissimo del gruppo italiano che esplose all'inizio degli anni 80 ed esplose anche sul piano della sparizione, perché il gruppo italiano dopo quel brano non si sa più che fine abbia fatto. E loro ragionano molto dall'estate dell'83 su questo brano, anche per parlare rispetto alle logiche di mercato, di ciò che diventa prodotto e subito deve rappresentare un grosso impatto e deve continuare a produrre sempre opere tutte uguali. Quindi sull'arte e sul mercato, questa riflessione anche sui giovani, in realtà su ciò che è chiesto ai giovani, questo lavoro di Frigo Produzioni Tropicana, 16-17 maggio, alle Carrozzerie Not. Invece, come già ricordato, però mi fa piacere dirlo, è importantissimo andare a vederlo questa sera fino al 19 maggio al Teatro Argentina, si nota all'improvviso Lucia Calamaro con Silvio Orlando e altri meravigliosi attori. È un lavoro che per quanto mi riguarda è tra i migliori di quelli che ho visto lo scorso anno. Un uomo è nella sua casa, è in una solitudine estrema, in un fine settimana dove la famiglia, i figli e il fratello lo vanno a trovare. In questa sua solitudine, le sue manie e il contatto con questa famiglia che deve da lontano poi gli va a rompere le scatole, è una grande scrittura, quella di Lucia Calamaro, da non perdere al Teatro Argentina. E questo, te lo dico, è tutto. Un abbraccio Simone, ciao! Ciao a tutti! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.